Il terzo anello ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi. Massimo Popolizio legge Le Memorie di Barry Lyndon, di William Thackeray, traduzione di Tommaso Giartosio. Al terzo brindisi era d'uso che le donne si ritirassero, ma questa volta mio zio le fermò, nonostante le proteste di Nora, che esclamava «Papà, lasciaci andare!» e disse «No, Mrs. Brady, signorine, per cortesia, questo è un brindisi speciale che si fa troppo di rado nella mia famiglia e vi prego di riceverlo con tutti gli onori. Alla salute del capitano John Quinn e della sua signora, con auguri di lunga vita! Baciala, Jack, vecchio bricone! Diamine, ti sei guadagnato un tesoro!» «È già stato!» strillai io, saltando in piedi. «Chiudi il becco, idiota, chiudi il becco!» disse il grosso Ulick che mi sedeva accanto. Ma io non sentivo ragione. «È già stato!» gridai. «Preso a schiaffi stamattina! Il capitano John Quinn! È già stato chiamato vigliacco! Il capitano John Quinn! E ora, ecco, come bevo alla sua salute! Alla vostra salute, capitano John Quinn!» E gli scagliai in faccia il bicchiere pieno di chiaretto. Non so che aspetto avesse subito dopo, perché subito dopo mi ritrovai io stesso sotto la tavola, afferrato per i piedi da Ulick, che mi aveva aggiunto un gran pugno sulla testa mentre crollavo. E non potevo ascoltare con attenzione le urla e la confusione tutta attorno a me, tanto ero impegnato da una scarica di calci, pugni e insulti con cui Ulick mi lavorava ben bene. «Idiota!» urlava, «ficcanaso, che intralci i piani altrui! Stupido, moccioso straccione! Un colpo per ogni sfilza di improperi! Chiudi il becco!» Di queste botte che mi dava Ulick, naturalmente non me ne importava, perché era sempre stato mio amico e mi aveva picchiato con regolarità per tutta la mia vita. Quando riuscii a venir fuori di sotto la tavola, tutte le signore se n'erano andate. Ebbi la soddisfazione di vedere che il naso del capitano sanguinava come il mio, ma il suo setto era spaccato e la sua bellezza rovinata per sempre. Ulick si scrollò, sedette tranquillamente, riempì una coppa e spinse la bottiglia verso di me. «Tieni, asinello», disse, «ciucciati questo e non farti più sentire arragliare». «In nome del cielo, che significa questa baruffa?» dice mio zio. «Il ragazzo ha un altro attacco di febbre?» «È tutta colpa tua», disse Mick con aria cupa. «Tua e di chi l'ha portato in questa casa?» «Chiudi il becco, Mick», dice Ulick voltandosi verso di lui. «Parla con rispetto di mio padre e di me, e non costringermi a insegnarti le buone maniere». «È colpa tua!» ripete Mick. «Che ci sta a fare qui, questo vagabondo? Potessi fare a modo mio, lo farei frustare e lo caccerei via». «E sarebbe ben fatto», approvò il capitano Quinn. «Non vi conviene provarci, Quinn», disse Ulick, che era sempre il mio campione. E rivolgendosi al padre, continuò: «Il fatto è, signore, che questo scimmiotto si è innamorato di Nora e, trovandola oggi in giardino, in dolci colloqui con il capitano, stava per ammazzare Jack Quinn». «Per Dio, comincia presto a darsi da fare», disse mio zio bonario. «Diamine, Fagan, questo ragazzo è un Brady dalla testa ai piedi». «Adesso vi parlerò chiaro», gridò Quinn rizzando il pelo. «Sono stato grossolanamente insultato in questa casa. Non sono per nulla soddisfatto di questo modo di fare. Sono un inglese, io, e un uomo di ampi mezzi, e io...» «Se vi pare di essere stato insultato e volete soddisfazione, Quinn, ricordatevi che siamo qua in due», disse brusco Ulick, al che il capitano si diede a lavarsi il naso nell'acqua e non disse più una parola. «Mister Quinn», dissi io con il tono più dignitoso possibile, «potrà avere soddisfazione in qualunque momento lo voglia, rivolgendosi al gentiluomo Redmond Barry di Berryville». A questo discorso mio zio scoppiò a ridere, come faceva sempre, su ogni cosa, e alla sua risata si unì il capitano Fagan. Io ero molto mortificato. Mi girai di scatto verso di lui e lo pregai di capire che, anche se ero un ragazzo e accettavo di venir trattato male da mio cugino Ulic, che era sempre stato il mio migliore amico, d'ora in poi non avrei più tollerato un simile trattamento, neanche da lui. Chiunque altro si azzardasse a comportarsi in quel modo avrebbe scoperto a sue spese di avere davanti un uomo. «Mr. Quinn, questo lo sa benissimo», aggiunsi. «E se lui è un uomo, saprà dove trovarmi». Mio zio a questo punto osservò che s'era fatto tardi e mia madre doveva essere in pensiero per me. «È meglio che uno di voi lo accompagni a casa», disse ai suoi figli. «Il ragazzo potrebbe avere in serbo qualche altra trovata». Ma Ulic disse, con un cenno al fratello, «Noi due accompagniamo Quinn». «Come volete», gemette il capitano. I cavalli vennero rapidamente preparati e i tre gentiluomini se ne andarono. Fagan restò con noi e, per volontà di mio zio, mi accompagnò attraverso il vecchio parco, spoglio di alberi. Disse che, dopo la lite a pranzo, immaginava che io non volessi rivedere le signore. Ero perfettamente d'accordo e così ce ne andammo senza salutarle. «Avete proprio concluso una bella giornata di lavoro, Master Redmond», disse lui. «Ma come? Voi, un amico dei Brady, ben sapendo che vostro zio è a corto di denaro, cercate di mandare a monte un matrimonio che renderà alla famiglia 1500 sterline annue. Quinn si è anche impegnato a saldare quel debito di 4000 sterline che dà tanti pensieri a vostro zio. Si prende una ragazza che ha meno di un penny e meno bellezza di quel manzo laggiù. Su, su, su, ora non vi infuriate, ammettiamo pure che sia bella. Sui gusti non si discute. È comunque una ragazza che per 10 anni ha provato a incastrare tutti gli uomini di queste parti e non ne ha mai preso uno. E voi, squattrinato come lei, un ragazzo di 15 anni... Va bene, 16, se insistete, un ragazzo che dovrebbe essere affezionato a suo zio, come suo padre. Infatti lo sono, dissi io, e lo ripagate così, della sua generosità? Non vi ha dato riparo in casa sua quando eravate un orfano? Non vi ha permesso di alloggiare gratis in quel suo bel palazzo di Berryville? E proprio ora, che i suoi affari sembrano mettersi a posto e che gli si presenta la possibilità di trascorrere comodamente la vecchiaia, chi va a frapporsi tra lui e il suo benessere? Voi, proprio voi, l'uomo che gli deve di più al mondo. È un'azione malvagia, ingrata, contro natura. Da un ragazzo di carattere come voi mi sarei aspettato un altro tipo di coraggio, quello vero. Io non ho paura di nessuno, esclamai, perché quest'ultima parte del ragionamento del capitano mi aveva fatto vacillare. E naturalmente volevo aggirarla, come si fa sempre quando il nemico è troppo forte. «E sono io l'offeso, capitano Fagan. Nessun uomo è mai stato trattato così, da che mondo è mondo. Guardate qui, guardate questo nastro. L'ho portato stretto al cuore per 6 mesi. L'avevo lì per tutto il tempo della malattia. Non me l'ha dato forse Nora, togliendoselo dal seno? Non mi ha baciato nel darmelo, chiamandomi Redmond, tesoro?» «Si stava allenando», rispose Mr. Fagan con una risatina. «Conosco le donne, signore mio. Date loro un po' di tempo, non lasciate che nessun altro si avvicini alla casa e vedrete che si innamoreranno dello spazzacamino. C'era una signorina che una volta all'inferno la signorina!» urlai io. «Ricordatevi questo. Qualunque cosa accada, giuro che mi batterò con l'uomo che aspira alla mano di Nora Brady. Lo seguirò, se necessario, fino in chiesa e l'affronterò là. Avrò il suo sangue, ho lui il mio, e allora questo nastro lo ritroverete tinto di rosso. Sì, ma se lo uccido, gli appunterò il nastro sul petto e lei potrà andare a riprendersi il suo pegno, se vuole». Questo lo dissi perché in quel momento ero eccitatissimo. E perché non per nulla avevo letto romanzi e drammoni. «Bene», dice Fagan dopo una pausa, «se così deve essere, così sarà. Per essere un ragazzo siete il più sanguinario che io abbia mai visto. Ma anche Quinn è un tipo deciso. Gli porterete la mia sfida?» chiesi pieno di ardore. «Shh! disse Fagan. Vostra madre potrebbe essere di sentinella. Siamo molto vicini a Berryville. Mi raccomando, non una parola a mia madre, dissi. Ed entrai in casa, gonfio di orgoglio ed esultanza al pensiero che mi sarei battuto con l'inglese, che odiavo. Quando mia madre, di ritorno dalla chiesa, si era mostrata molto preoccupata per la mia assenza e ansiosa di vedermi rientrare, il mio servo Tim era salito al castello. Là mi aveva visto entrare nella sala da pranzo, incoraggiato da quella dama di compagnia così sentimentale. Si era poi fermato a prendersi una buona porzione di leccornie nella cucina del castello, sempre più fornita della nostra. Infine, era tornato a casa per dire alla sua padrona dove ero, e senza dubbio anche per raccontarle una sua versione di tutto ciò che era successo a Castle Brady. Perciò, nonostante i miei scrupoli di segretezza, avevo il forte sospetto che mia madre sapesse tutto, a giudicare dal modo in cui mi abbracciò all'arrivo e da come accolse il nostro ospite Fagan. La povera donna era un po' in ansia, rossa di emozione, e di tanto in tanto si fermava a fissare il volto del capitano, ma non fece parola della lite. Aveva uno spirito nobile e avrebbe preferito vedere un suo consanguineo pendere dalla forca che saperlo in fuga dal campo dell'onore. Che ne è oggi di questi sentimenti gagliardi? 60 anni fa un uomo era un uomo nella mia vecchia Irlanda, e alla minima divergenza la spada appesa al suo fianco era pronta a ficcarsi nello stomaco di qualsiasi gentiluomo. Ma i bei vecchi tempi e le usanze di allora stanno rapidamente scomparendo. Oggi non si ha quasi mai notizia di un combattimento equo. E poi l'uso di queste vostre vili pistole al posto dell'onorevole virile arma dei gentiluomini ha introdotto una buona dose di furfanteria nella pratica del duello, cosa che non si potrà mai lamentare abbastanza. Quando arrivai a casa, sentii che adesso ero un uomo per davvero. Dopo aver dato il benvenuto al capitano Fagan e averlo presentato con maestosa solennità a mia madre, dissi che il capitano doveva avere sete dopo la passeggiata e ordinai a Tim di portare sui bicchieri dolci e una bottiglia di Bordeaux con il sigillo giallo e senza perdere tempo. Tim guardò la sua padrona sbalordito. In realtà, fino a 6 ore prima, non mi sarei mai sognato di farmi portare di mia iniziativa una bottiglia di vinello. Sarebbe stato assurdo, come mettermi in testa di dar fuoco alla casa. Ma adesso sentivo di essere un vero uomo, con il diritto di dare ordini, e questo lo sentiva anche mia madre, che si voltò verso il servo e disse seccamente: «Mascalzone! Non hai sentito quello che ha detto il tuo padrone? Vai a prendere il vino, i dolci, i bicchieri. E subito!» Quindi si alzò e, visto che non lasciava certo a Tim le chiavi della cantina, senza dir nulla andò lei stessa a prendere il vino, che Tim ci portò poi in debita forma su un vassoio d'argento. La mia cara madre versò il vino e beve alla salute del capitano, ma osservai che la sua mano tremava visibilmente nel compiere questo dovere di cortesia e la bottiglia tintinnava contro il bicchiere. Aveva appena assaggiato il vino che subito disse che aveva mal di testa e che se ne andava a letto. Così chiesi la sua benedizione, come deve fare un figlio rispettoso. I bellimbusti del giorno d'oggi trascurano queste cerimonie di omaggio da cui, ai miei tempi, si riconosceva un gentiluomo. E lei mi lasciò con il capitano Fagan a parlare dei nostri affari importanti. «A dir la verità», cominciò il capitano, «ormai non vedo altra via d'uscita da questo pasticcio, se non un combattimento. Il punto è che dopo la vostra aggressione a Quinn, questo pomeriggio a Castle Brady c'è stata una discussione, e Quinn ha giurato che vi avrebbe fatto a pezzi. Ma le lacrime e le suppliche di Miss Honoria l'hanno poi indotto, molto controvoglia, a desistere. Ora però le cose sono andate troppo in là. Nessun ufficiale, agli ordini di Sua Maestà, può prendersi un bicchiere sul naso senza reagire all'insulto. A proposito, Questo vostro chiaretto è davvero buono e se permettete ci faremo portare un'altra bottiglia. Dovete per forza battervi. E Quinn è un pezzo d'uomo robustissimo. Così proverà ancora meglio il mio valore, dissi io. Non ho paura di lui. Diamine, rispose il capitano, sono certo che non ne avete. In tutta la vita non ho mai visto un ragazzo con tanto fegato. Guardate quella spada, signore, dico io, indicando un'arma elegante, montata in argento, dentro una custodia di zigrino bianco, appesa sopra il camino, sotto il ritratto di mio padre, Harry Berry. È con quella spada, signore, che mio padre ferì Mowak O'Driscoll a Dublino nell'anno 1740. E con quella stessa spada si batté con Sir Huddleston Fuddleston, il baronetto dello Hampshire, e gli trapassò il collo. Si affrontarono a cavallo con spada e pistola. Certamente ne avrete sentito parlare. E quelle sono le pistole. Erano appese ai due lati del quadro, usate dal valoroso Berry. Era assolutamente nel torto. Si era sbronzato al grande ricevimento dei Brentford e aveva insultato Lady Fuddleston. Ma davvero gentiluomo sdegnò di scusarsi e Sir Huddleston si prese una palla nel cappello ancora prima che sguainassero le spade. Io sono il figlio di Harry Berry, signore, e agirò come si conviene al mio nome e al mio stato. Dammi un bacio, caro ragazzo mio, disse Fagan con le lacrime agli occhi. Sei proprio secondo il mio cuore. Finché Jack Fagan campa, non ti mancherà mai un amico né un padrino per batterti. Povero diavolo. Venne colpito da una palla 6 mesi dopo, mentre portava ordini a Milord George Sackville, e persi in lui un amico cortese. Ma non sappiamo mai cosa ci attende, e quella sera almeno fu allegra. Bevemmo una seconda bottiglia, poi una terza. Sentivo mia madre che ogni volta scendeva in cantina e non venne mai in sala da pranzo, lasciando che ce la portasse il maggiordomo, Mr. Tim. Infine ci separammo e lui si impegnò a combinare la cosa con il padrino di Mr. Quinn quella sera stessa e farmi sapere l'indomani mattina dove ci saremmo battuti. Negli anni successivi ho spesso pensato quanto sarebbe stato diverso il mio destino se non mi fossi innamorato quando ancora ero così giovane e se non avessi scagliato il vino in faccia a Quinn, rendendo inevitabile il duello. Forse mi sarei stabilito in Irlanda. A 20 miglia da noi c'era Miss Quinlan, un'ereditiera, e Peter Burke lasciò a sua figlia Judy 700 sterline annue. Se avessi atteso qualche anno, avrei potuto avere una delle due in sposa. Ma era il mio destino di essere un giramondo, e quel combattimento con Quinn mi fece partire per i miei viaggi in giovanissima età, come sentirete. Massimo Popolizio ha letto Le memorie di Barry Lyndon di William Thackeray, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Riduzione di Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.